strepiti precipizi, adagio un poco. Vuol la mia convenienza che pria della partenza sappiasi la ragione di trattamento vil di Don Pompone. E chi siam conosciuti un passo non offende, e loro si suol dir macchia non prende. Ma la fronte richiede, non è questo chi vi trattien, ma vi conosco in scena, e l'avventuriera Dorina qui veduta, e d'accordo con voi sarò ridotta. Ma voi pensate mal, non parlo in vano, Don Poppone il mezzano fa in casa sua così. Don Poppone, egli un villano, zitto, egli qui. Che tremore mai questo? Casa vostra non mi credevo mai veder qui coveduto. Avete visto? Siete assai ben provvisto, non vi mancherà certo argento ed oro. Mi lusingo anch'io d'un bel tesoro. Non le state a badar. E mio amoretto volete far a parte di sì bella fortuna? In verità ho intenzione di far secco a metà. Bravissimo davvero, cotesto è nel mestiero, ma non vi riuscirà, lo giuro a cielo, che io scoprirò di questi trovi velo. Questa ragazza, ditemi ver, la poverina è pazza. Tutta la sua pazzia sta nella gelosia. Di chi è gelosa? Di quella forestiera, quella già tira voi. Crede che io l'ami, crede che voi l'abbiate qui introdotta per me, crede. Piano, piano. crede dunque? Chiami fati mezzano. Ora, ora capisco la sua bestialità. Crede che vogliam fare a metà? Iodicea del tesoro. Ed ella intesi che volesta un tesor chiamar Dorino. Io mi intesi il tesor nella cantina. Eccomi qui, vi pare che consista nel ber tutto il del coro? Non vi parlo del vin, parlo dell'oro. L'oro nella cantina? Noi sapete, va venuti non siete per aiutarmi a far la scavazione. Falco m'ha detto pure che in ciò siete eccellenti e che circa i tesor fate portenti. Vuoi secondar per iscoprir il vero? Infatti il mio mestiero e di cavar tesori. E pur nascondervi fingete a nobiltà. Certo. Va bene, ma sicura conviene della vostra signora il dubbio strano che si crede che ho far voglia al mezzano, perché perdi la schietta, padron mio, la grazia di madama la voglio. Siete di lei amante? Io la vi non dirò con grande amore, ma mi ha fatto l'onore di dirmi tante cose dolcissime amorose, che quantunque da ciò fossi lontano, di lei mi feci innamorar pian piano. Anch'io per dirvi vero ho pene della stima. Doppia fortuna in questo di sospetta, avrò il ricco tesoro e la contessa. Ebben, son venuti qua e del tesoro. Sì, sono arrivati ed ambo in casa mia sono alloggiati. Li avete regalati? Non ancora, destinerò allora che avrò veduto l'opra sua valente. Signor mio caro, non farete niente. Quando abbiate di loro fede, concetto e stima, io vi consiglio regalarli prima. Cosa li potrei dar? Potreste dare un anel di diamanti alla signora e all'uomo di genio avaro una borsa con dentro del denaro. E poi, falco mio caro, e poi vi è un'altra cosa che mi rende contento in sì bel giorno. Che cosa mai? Un bel visetto adorno. Dico lei del tesoro. Poi boh, un'altra giovane bella scaltra che mandommi la sorte in casa mia. E tu una graziosa dama che mi sospira e brama, che svelato l'amor ma da se stessa. E chi è questa signora? Una contessa. Quella forse che prima era da me alloggiata. Quella sì, per l'appunto. E inver garbata. Garbata, garbatissima, spiritosa, graziosa e gentilissima. Falco mio, non posso star, io mi sento intenerì, mi sento intenerì. Quando penso a quel bel volto che m'ha colto in mezzo al cuore, in mezzo al cuore. Luci belle, vaghe stelle, e i rubini porini, tante rose, cento cose vorrei dire, non so dir. Falco mio, oh, che bellezza, io mi sento intenerir. Che bellezza, oh, io mi sento intenerir, mi sento intenerir, mi sento intenerir. Quando penso a quel bel volto che m'ha colto in mezzo al cuore, luci belle, vaghe stelle, bei rubini porini, latte rose, vaghe stelle, luci belle rose, latte, latte rose, cento cose vorrei dire, cento cose non so dir, non so dir. Falco mio, oh, che bellezza, io mi sento intenerir, che bellezza. Come sei innamorato della contessa Nastri? Manco male che non sei l'animata eccesso di Rorina, che pare agli occhi miei tanto bellina. Eccola qui davvero, l'ho appena nominata e tosto è capitata dinanzi all'occhio mio. O facesse così quando dichio, bellissima Dorina. Un passo in là, un po' più di rispetto e civiltà. Che vuol dire? vuole dir ch'io son, chi sono? Oh, questa si è bellissima! E mi viene un pochin dell'illustrissima! Buono! Da quando in qua questa gran nobiltà? Dolore stesso che mi facesti diventare contessa! Adagio, adagio un poco! Si può saper com'è? Qui v'è un imbroglio, Don Popone senz'altro ha equivocato. Vi credi il conte e la contessa Nastri? Il mi creda nastro, o fettuccia, o cordella, o stringa, o spago, questo accidente è vago, e finché dura la dama voglio far le mie figura. Ci perderete poi. Perché? So io che per consiglio mio regalarvi dovea. Ora non lo farà per soggezione della nobiltà. Per un regalo poi, se avesse tal idea, li rinunzio il damato e la contea. Procurate d'averlo con la vostra prudenza e con bell'arte. E a voi la vostra parte riservata sarà. Da voi non voglio altro, Dorina amata, per parte mia, che una benigna occhiata. Ancora preparato per voi qualche cosetta. voi l'anello, e a voi questa borsetta. A me denaro, a me tal villania, che credete ch'io sia irredente conto, uomo civil, del replicato affronto. Signor, mi meraviglio, chiamo mi offesa anch'io, un annil non si offre ad un par mio. Chi son questi superbi? Gente vile, non san la civiltà. Riposare i regali, oh che viltà, chi è nato ben gradisce. Se un animo ferisce, s'accetta la finezza. Un regalo così non si disprezza. Segnarvi non vorrei, per altro offrirei. No, non indegno, accetterò dell'amicizia impegno. L'anello. Obbligatissima. La borsa. Obbligatissimo. Un cavaliere, un mannissimo. Dama di cuore gentile ed amorevole. Io son grata, signore. Io son degnevole. Ma la capo in testamento, ya figliei del cinquecento, ya figliei del cinquecento. Accetta per civiltà tutto quel che venirà. Venga poco, venga assai, ricusa, ricusa, non voglio mai, mai, mai, mai, mai. Il forese fossi donna di mia nonna e di mia nonna, di mia nonna e di mia nonna, eseguir, eseguir, eseguir la volontà. Il vorrei, eseguir la volontà, eseguir la volontà, eseguir la volontà. Ma lasciato il testamento, gli avi miei del cinquecento, gli avi miei del cinquecento. Accettar per civiltà tutto quel che venirà. Venga poco, venga assai, ricusa, non voglio mai, no, no, non voglio mai, mai, mai. Chi vorrei se fossi donna di mio nonno e di mia nonna, di mio nonno e di mia nonna, eseguir, eseguir, eseguir la volontà. Ha lasciato un testamento, gli avi miei di cinquecento, accettate civiltà, tutto quel che venirà. Venga poco, venga sai, ricusa non voglio mai, accettate civiltà, venga poco, venga sai, ricusa non voglio mai, ricusa non voglio mai, mai, mai, mai, mai. Chi vorrei se fossi donna di mio nonno, mia nonna, di mia nonna, di mia nonna, eseguir, eseguir, eseguir la volontà. I vorrei, eseguir la volontà, eseguir la volontà, eseguir la volontà. Per esempio, se io vi donassi un tesor, l'accetterei. E se vi offrissi il cor? Ci penserei. Dirò come diceva in Venezia sua patria una ragazza, del vostro cor cosa voler che faccia? E poi su tal proposito con quella veneziana sua grazietta vi cantava così la canzonetta. Generoso, el profumo ferì, questo non so più dove ch'io l'abbia. Cento cose contrarie ritrovo in un momento, ed illuso restare al fin pavento. Signor padron, mi dia la mia buona licenza e vado via. Come? Perché? Perché si è ritrovata un'altra innamorata. E Dio, signor, non ve ne abbiate male, io non voglio seguire una rivale. Chi va detto? So io quel che ragiono, sorda cieco non sono. Infatti, lo confesso da me stessa, devo cedere il lucco a una contessa. Ma non è vero! Eh sì, signor, che è vero! Ho veduto, ho sentito, so dei teneri affetti, e so che la faceste regaletti. Come lo sa? Però mi meraviglio veder da voi cambiata una facciulla in una maritata. Ha ragione costei. Già ve l'ho detto e ve lo torno a dire, datemi la licenza, io lo padirri. No, Chiandina, restate, se voi m'abbandonate, io morirò. Certo, non arresterò se voi non amate, se voi non licenziate una rivale che mi dà tormento. Vado in questo momento a licenziarla, a far che vari via, non vi vuo disgustar, Chiandina mia. Or mi lusingo e spero che li mi dica il vero. Un uomo innamorato qualche volta si scorda il primo amore, ma torna poi dove ha fissato il cuore. Quell'interoso loco che Don Popone qui verrà fra poco. Andiamo! Non vorrei trovarmi in qualche imbroglio. Fidatevi di me, fate quel che v'ho detto, ne vedrete l'effetto. Siete qui? Sì, signor. Ma dove sono i nostri operatori? Zitto, sono qua di fuori, saranno in vostro aiuto. Questo foglio mandato in cui sta lo scongiuro registrato. Ebben, che sa da fare? Ecco per scavare, portatio gli strumenti. Avete ori ed argenti? E questi ancora portatio meco. Principiamo ora, dite come dic'io. Mi raccomando a voi. L'impegno è mio. Porgetelo qua, porgetelo qua. cavar. Non posso durare, non posso durare. E loro terre, e loro terre. Se più non ce n'è, se più non ce n'è. E loro ce n'è, e loro ce n'è. Se loro è finito, è finito. Mi hanno convinto, per ora sarà, per ora sarà. Ma dove mio tesoro? Ma dove mio tesoro? Vedetelo qua, vedetelo qua. Ahimè, ahimè, ecco, come sei, come, come sei. Viva l'orco, la mia bollezza contenta sarà, sì, sì, contenta sarà.